Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti per la precisione, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia in diretta, come abbiamo annunciato ieri, da Parma, dalla Fiera di Parma, dove è iniziata oggi da due giorni. L'abbiamo anticipata ieri con chi fa gli onori di casa, il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Dicevo, da due giorni che il Centro Studi di Confindustria dedica, come già ricordato ieri da Paolazzi, non tanto o non solo all'impresa, ma all'imprenditore. E ne parleremo fra poco con il presidente del centro di ricerca Ipsos, Nando Pagnoncelli, perché è stata presentata una ricerca poco fa, devo dire interessante, pur con molte criticità, sulla differenza, chiamiamolo così, strabismo, scollamento, nella percezione dell'opinione pubblica tra il ruolo dell'impresa e il ruolo dell'imprenditore. Molto importante è il ruolo dell'impresa, viene meno capito il ruolo dell'imprenditore, ma non voglio anticipare nulla, vi arriveremo fra poco. Erano due giorni in cui si daranno, chiaramente, visto che l'organizza il Centro Studi Confindustria, anche tutto un insieme di dati previsionali, ma soprattutto si ragionerà su il percepito dell'imprenditore. Sostanzialmente, per dirlo con una battuta, perché quello che è il percepito dell'impresa è migliore, più positivo rispetto a quello che è il percepito dell'imprenditore nell'opinione pubblica. E domani chiuderà due giorni il presidente Confindustria Squinzi nel suo ultimo intervento, diciamo, come presidente in carica, perché poi a fine maggio vi sarà il passaggio di consegne e vi sarà solo un intervento di forma e di saluto. Questo per quello che riguarda il primo tema. L'altro grosso tema, gli altri due grossi temi di oggi saranno la borsa, e sono la borsa e il DEF. Partiamo dalla borsa. Insomma, possiamo tranquillamente parlare di otto volante, di montagne russe, di borsa schizofrenica. Perché lo dico? Perché dopo una settimana che era iniziata con cali pesanti, li abbiamo raccontati anche ieri, di tutti i titoli bancari, non solo le popolari, non solo quelli coinvolti nella fusione, tutto andava giù. Oggi assistiamo alla schizofrenia attraverso le cifre, le percentuali. Popolare Emilia Romagna più 13,80%. Popolare di Milano più 11,32%, Banco Popolare più 10,21%, UbiBanca più 9,70%, Unicredit più 9,70%, Saipem, che non c'entra col mondo bancario, più 8%, Monte dei Paschi più 7,60%. Ancora Intesa San Paolo guadagna il 5,82%, Banca Mediolanum il 5,15%. Tra i non bancari cito anche Telecom Italia più 5,70%. Non c'è nulla di negativo, tant'è che l'indice oggi guadagna il 3,80%. È a dimostrazione che Milano si muove in negativo e in positivo, soprattutto sulla base del settore bancario, che pesa molto sull'indice complessivo. Beh, dicevo, a dimostrazione di questo basta guardare a cosa fanno le altre borse, positive ma non come Milano, così come nei giorni scorsi erano negative ma non come Milano. Più 1,31 Parigi, più 0,90 Francoforte, più 1% Londra, l'America col Dow Jones più 0,60%. Euro sempre relativamente forte, cioè a quota 1,14. Citavo anche i titoli del petrolio. Oggi c'è un rialzo netto delle quotazioni petrolifere, ma anche qui siamo ormai abituati a un saliscendi continuo. Più 5,50% il prezzo del petrolio a New York, di nuovo vicino ai $40 il barile, 39,30 l'ultima rilevazione che abbiamo a disposizione, ed è il motivo per cui in maniera molto molto speculativa, anche perché i contratti del petrolio si fanno sono contratti future, quindi non ha senso, ma si va a comprare per esempio oggi Saipem, ma non solo, anche Eni guadagna il 4%. L'altro tema di giornata sarà ovviamente il DEF. Il Consiglio dei Ministri è in programma alle 18, deve varare il documento economico finanziario. Questa mattina varie fonti di Palazzo Chigi smentivano alcune indiscrezioni di stampa e invitavano a diffidare delle bozze circolate appunto tramite stampa sul DEF. Il testo definitivo sarà consegnato ai giornalisti, hanno spiegato le fonti, al termine del Consiglio dei Ministri. Però qualche notizia già c'è, un tweet del Ministero dell'Economia e Finanze che segnala come il PIL italiano accelera e cresce più che nel 2015, devo dire che era già previsto da tutte le stime, vedremo poi quale sarà l'ultima revisione, l'ultimo dato che verrà diffuso oggi dal Consiglio dei Ministri. Invece il debito cala meno del previsto e nel 2016 è previsto scendere solo al 132,4% del PIL contro il 132,7% dell'anno scorso, la previsione era di portarlo al 131%. Padoan ha detto che comunque l'inversione della dinamica del debito è un obiettivo strategico per il governo. Dalle bozze circolate, su cui il Ministero invita ad essere molto prudenti, però c'era un deficit nel 2016 al 2,3% che scenderebbe all'1,8% nel 2017 e addirittura sarebbe in leggero surplus, quindi un attivo di bilancio, non più un deficit, nel 2019. Il deficit previsto dalla legge di stabilità per quest'anno era il 2,4% ed è quello che è oggetto di discussione a Bruxelles sulla flessibilità da attribuire all'Italia. Allora, diciamola tutta, sotto il 3% non va in procedura di infrazione, però è anche vero che l'Italia aveva promesso un calo un po' più sostenuto, sapete come la pensa chi vi parla, cioè che in questo momento il problema dell'area euro non siano i decimali di deficit, per carità è importante che non torni sopra il 3%, ma che sia 2,4, 2,3 o 2% non è questo che fa la differenza, sono gli investimenti che devono ripartire a livello europeo e a livello anche nazionale, devono essere anche investimenti, piaccia o non piaccia, di carattere pubblico. Comunque l'asticella, dicevo, è fissata per il 2,3% e poi un altro calo l'anno prossimo all'1,8%. Ne parleremo nella seconda ora del programma, non ci sarà oggi, lo dico già a chi sta scrivendo, scusate la voce, l'appuntamento di ogni venerdì con la classifica poco invidiabile di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione. Siamo in esterna, la riprenderemo la prossima settimana, qualche notizia c'è, ma è una sospensione assolutamente temporanea. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo che qualcuno dice, ma no, schizofrenia, sono solo recuperature in borsa. Certo, i titoli erano calati moltissimo, ma allora possiamo dire che era schizofrenico il calo di questi giorni. Insomma, se volete trovare un senso a una borsa che fa meno 3, meno 4, meno 5 su titoli e poi venerdì fa più 10, più 11 sugli stessi titoli, secondo me, per usare Vasco Rossi, un senso questa storia non ce l'ha. Ma alcuni dicono, ma quale schizofrenia? Magari il rimbalzo del gatto morto, speculazione, ok, ci siamo, basta essere d'accordo sul fatto che da questo punto di vista non vi sia nessun motivo concreto. Sì, ci sono appunto tutto un insieme di ragionamenti su quello che farà il governo con le banche, quindi il piano del governo sulle banche. Oggi circola voce di un ottimismo del settore bancario, però se qualcuno ha informazioni e compra in questo modo, insomma, boh, la Consob non ha niente da dire, magari è solo speculazione. Allora, altre notizie che riguardano il mondo del petrolio. Oggi il numero uno di Saipem, Stefano Cao, a margine dell'Italian Norwegian Energy Dialogue a Milano, ha ribadito che, che l'andamento del prezzo del petrolio preoccupa anche Saipem e poi ha ricordato che verrà firmato la prossima settimana, quando il Premier Renzi tornerà in Iran, un nuovo memorandum of understanding, e vi sarà anche Saipem in Iran, avviato già nella scorsa missione. Sono contatti non definitivi, ma comunque importanti per avvicinarsi a una fase più operativa anche in Iran. Volete sapere delle bozze sul DEF? Sì, quelle che il Ministero invita a prendere, a non prendere per vere. Allora, sarebbe previsto un PIL italiano quest'anno in crescita dell'1,2%, dell'1,4% l'anno prossimo, un po' più debole rispetto alle attese iniziali, però abbiate pazienza, ne parleremo alle 18. Tra l'altro, da quello che si capisce nel documento economico finanziario, vi sarebbe anche una premessa firmata dallo stesso ministro dell'economia che definisce controproducente la politica europea dei conti pubblici. Il governo ritiene inopportuno e controproducente adottare un'intonazione più restrittiva di politica di bilancio. Questo sarebbe scritto nell'introduzione al DEF. E poi vi sarebbe anche la stima del gettito delle privatizzazioni nel 2015 pari allo 0,4% del PIL, cioè 6,5 miliardi, da proseguire anche nel 2016, tra cui ENAV, il 49% dell'ENAV, e poi la privatizzazione delle ferrovie dello Stato invece rientra in un piano più di medio periodo, quindi da quello che capiamo è esclusa per l'anno in corso. Oggi e domani in contemporanea con Confindustria vi sarà vi è anche il forum workshop Ambrosetti in corso a Cernobbio. Ne abbiamo parlato anche in questo caso martedì con il numero uno di Ambrosetti De Molli. Oggi è stato diffuso anche un sondaggio. La maggior parte degli imprenditori presenti ritiene che il 2016 andrà meglio del 2015, il 43%, solo il 9,5% ha risposto che andrà peggio, e il 37% ha detto che quest'anno dovrebbe assumere almeno il 10% di forza lavoro in più rispetto all'anno scorso. C'è un 12% che dice che assumerà anche più del 10%, sul fatturato appunto c'è ottimismo. La preoccupazione maggiore resta la Cina, ma non come concorrente, come mercato di sbocco, e cioè il rallentamento cinese preoccupa gli imprenditori molto più, stando al sondaggio diffuso appunto a Cernobbio, di tematiche quali l'ISIS, l'immigrazione o le elezioni americane. Quanto alla stima su dove si collocherà il prezzo del petrolio, sempre dal sondaggio presentato oggi a Ambrosetti, gli intervistati lo hanno stimato tra i 40 e i 50 dollari al barile. Ancora due notizie in breve. Le cooperative dei costruttori hanno dato vita, lo si è saputo oggi a livello ufficiale, a un nuovo consorzio. Si chiama Consorzio Integra, ha sede a Bologna e ha però presenza su tutto il territorio nazionale, 116 soci industriali, 3 soci finanziatori, giro d'affari complessivo delle associate di 6 miliardi di euro per 50.000 addetti e un portafoglio di lavori da 2 miliardi di euro, una capitalizzazione da 42 milioni di euro, sottoscritta tra l'altro per dare origine al consorzio, per dar vita al consorzio in meno di un mese. Allora, di borsa parleremo tra poco, ma vedo anche messaggi sul piano del governo per creare due fondi a garanzia del sistema bancario e in particolare delle sofferenze e degli aumenti di capitale. L'attesa è che venga presentato la settimana prossima, almeno come percorso, come tappe, e questo arriva da fonti vicine al dossier. È previsto e confermato da queste fonti il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti, però in ruolo di netta minoranza, mentre sarebbe previsto anche il coinvolgimento, oltre che delle banche, delle fondazioni, degli enti di previdenza e delle compagnie assicurative. In questi giorni sono proseguiti anche i contatti con la Unione Europea e la Banca Centrale Europea. Nessun commento oggi da Bruxelles sul piano del governo per creare due fondi a garanzia del sistema bancario sulle sofferenze delle banche. Le fondazioni sono date in movimento sul piano del governo, alcune enti, a partire dalla Fondazione Cariplo e Acri, mi riferisco quindi a Giuseppe Guzzetti, avrebbero ricevuto una lettera del presidente appunto di Cariplo e di Acri Guzzetti, dove si chiede di esaminare con urgenza la possibile partecipazione della fondazione al fondo auspicato dal governo con risorse private. Queste lettere sarebbero state inviate a varie fondazioni bancarie. E il sottosegretario Zanetti oggi a margine del Salone del Risparmio a Milano ha detto che l'unica soluzione di sistema, non si può andare avanti a singoli aumenti di capitale, ahimè anche la vicenda del Banco Popolare lo dimostra, bisogna trovare una soluzione quadro. E visto che questo poi è il tema che muove, almeno come scusa speculativa, la borsa oggi, Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Dopo 4 settimane sotto il fuoco incrociato della speculazione e dei timori sulla crescita economica globale, le borse europee sono finalmente uscite dalla trincea. Oggi, ultima seduta di una settimana particolarmente dura per tutti i listini, ma soprattutto per Piazza Affari e per i nostri BTP, il mercato italiano ha messo a segno non solo il miglior rialzo tra le borse europee, oltre il 3,5%, ma anche un buon recupero dello spread tra BTP e Bund, i titoli di Stato tedeschi, considerati un po' il termometro della fiducia sull'Eurozona. Ma il fatto più importante è che a guidare i rialzi della Borsa di Milano e dell'intero settore finanziario europeo sono state proprio le nostre banche, le più danneggiate dall'ondata di vendite che nelle ultime settimane ha colpito indiscriminatamente tutti i titoli del settore, a prescindere dalle incognite sulla loro solidità. Certo, il rimbalzo di una seduta non significa la fine delle incertezze, ma questa volta la spinta del rally ha un carburante più che concreto: l'imminente accordo, favorito dal governo e raccolto dalle banche, sulla costituzione di un fondo a prevalenza privata per la garanzia e l'eventuale finanziamento degli aumenti di capitale delle nostre banche. Entro lunedì dovrebbe essere varato infatti il doppio veicolo per le ricapitalizzazioni e per i crediti deteriorati, i due punti critici che hanno esposto il settore agli attacchi speculativi. Al fondo dovrebbero partecipare tutti i più importanti istituti e in particolare Unicredit, il cui titolo ha risentito più degli altri dei rinnovati timori sulla patrimonializzazione dell'industria bancaria. Il varo di nuovi strumenti di rilancio delle banche è quindi stato ben accolto dagli investitori nazionali ed esteri, che hanno spinto in grande rialzo non solo Unicredit, ma anche Popolare Emilia, UBI, Intesa, Monte dei Paschi e Popolare di Milano. Tutti buoni segnali che attendono comunque conferma la prossima settimana. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, iniziamo col primo tema. Vedo alcune domande. Cosa significa CEO, CEO, è nel mondo anglosassone l'equivalente del nostro amministratore delegato. Lo dico per far capire a tutti. Invece cosa significa DEF? No, non è l'abbreviazione di deficit, anche se la battuta non è male. DEF è l'acronimo per documento economico finanziario, e quindi è il documento, diciamo, che deve tracciare lo scenario, il quadro, in vista della legge finanziaria o legge di stabilità, come si chiama adesso, che arriva però in autunno. È il materiale, diciamo, di previsione sull'andamento dei conti pubblici, dei risparmi, delle spese, del deficit e quant'altro, su cui poi tu elabori la finanziaria. Allora, imprenditori i geni dello sviluppo. Già ieri ragionavamo con Luca Paolazzi del fatto che c'è un voluto gioco di parole, geni inteso come genetica, e quindi quali sono gli elementi che permettono e che caratterizzano e connotano lo spirito dell'imprenditore, e poi geni, volutamente, può anche essere letto come coloro che sono geniali. Il punto, a mio avviso, è partire subito con la notizia. Il rapporto è molto lungo, è stato presentato all'inizio di questi lavori, e la percezione dell'impresa e del ruolo dell'impresa nella società, quindi il ruolo sociale dell'impresa, che non vuol dire che l'impresa faccia beneficenza, ma vuol dire che l'impresa ha un ruolo sociale, crea lavoro, crea ricchezza, e il ruolo sociale o il ruolo tout court dell'imprenditore. Ringrazio per averci raggiunto qui negli studi del 24 alla Fiera di Parma il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli. Buonasera Pagnoncelli. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Non possiamo raccontare tutta la ricerca, però iniziamo dai titoli, poi andiamo un attimo a scorporare. Quando parliamo di strabismo, tra l'altro voi avete fatto una cosa interessante, perché avete paragonato i dati raccolti dall'opinione pubblica in Italia con dati analoghi, con le stesse domande, esatto, su impresa e imprenditori fatti in Germania, Stati Uniti, Polonia e Turchia. L'indagine, i dati sono di fine 2015, 1000 italiani tra i 15 e i 74 anni. Allora, che cosa vuol dire strabismo? Vuol dire che gli italiani tendono ad avere un giudizio estremamente positivo nei confronti delle imprese italiane, testimoniato da tutta una serie di dati che emergono da queste e da altre ricerche. Ne cito due che mi paiono particolarmente rilevanti. Quando noi chiediamo quali sono gli elementi che supportano la crescita di un paese e lo rendono importante a livello economico, ebbene in Italia al primo posto si mettono le piccole e medie imprese con il 48% delle risposte. E al contrario, in altri paesi, cito Stati Uniti e Germania, al primo posto si mette il livello di istruzione. Quindi le imprese al centro come motore dello sviluppo nella percezione dei cittadini. Anche se spesso si ha un'idea delle imprese un po' vaga, nel senso che il 71% per esempio ignora che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. D'altra parte però alle imprese, e questo è il secondo dato che voglio citare, viene attribuito un livello di fiducia elevatissimo. In un periodo in cui viene meno o si indebolisce fortemente la fiducia nella politica e nei partiti, solo il 19% ha fiducia nei partiti, L'83% ha fiducia nelle piccole imprese e tra il 60 e il 70% tra le medie e grandi imprese. Cosa significa questo? Significa che i cittadini tendono a spostare le aspettative di crescita, di miglioramento complessivo del paese, di uscita dalla crisi sulle aziende e molto meno sugli organismi di rappresentanza e la politica. Allora, vedo già due elementi di criticità. Il primo è, bisogna capire se non sia troppa grazia Sant'Antonio, nel senso che un paese che dà solo per il 19% alla politica il ruolo di farti uscire non dalla crisi, ma diciamo di farti ritornare a crescere, perché abbiamo già spiegato ieri che questa non è una crisi, è un cambio strutturale di paradigma, è una rivoluzione vera e propria, in cui c'è anche stata una crisi, ma non limitatevi a guardare la crisi, non si tornerà più ai livelli di prima, non tanto come valore, prima o poi ci arriveremo, ma come modus operandi, come attività economica. Però io non so se devo essere contento di un paese che dà così tanta responsabilità alle imprese, piccole imprese e anche medie, e così poco alla politica. Cioè ben venga un'opinione pubblica che dice sì, le imprese hanno un ruolo importante. Altra cosa, un'opinione pubblica che dice meglio affidarsi solo alle PMI e alle medie e grandi imprese, perché dalla politica non ci aspettiamo niente, è un'opinione pubblica molto molto sfiduciata, perché in altri paesi, Paglioncelli, scommetto che il dato sul ruolo della politica era sicuramente più alto, visto che avete fatto... Sì, non molto più alto, molto in più Europa, alto. Nei 28 paesi europei il livello di fiducia nei partiti non è molto molto più alto. In realtà, diciamola tutta, c'è una fase di crisi profonda nei rapporti di rappresentanza cittadini-politica. Ovviamente quello che lei sta dicendo è sacrosanto, cioè il fatto che si sposti l'aspettativa sul mondo delle imprese è eccessivamente come dire, impegnativo per le imprese stesse. Basti pensare che per esempio il forte investimento sui temi della social responsibility, quindi corporate social responsibility, CSR, cosiddetta responsabilità sociale dell'impresa, allarga il perimetro. Cosa vuol dire? Non è più solo correttezza, eticità e trasparenza nei confronti del mio cliente, ma è l'idea che l'azienda è chiamata a recitare un ruolo sociale, quindi attenzione ai propri dipendenti, attenzione ai propri fornitori, attenzione alle comunità, agli ambiti nei quali l'impatto ambientale e quant'altro. Esattamente. E quindi un corpo sociale, come si diceva una volta, un attore sociale vero e proprio, non solo qualcuno che diciamo, deve fare un utile e vendere. L'altro elemento, magari lo affrontiamo dopo il metodo e la pubblicità, però riguarda il ruolo dell'istruzione, anche qui. Ovvio che noi siamo contenti, stiamo ancora parlando di imprese, non di imprenditori, poi arriviamo al tema imprenditori, che il 48% degli intervistati dia all'impresa il ruolo della crescita e dell'elemento competitivo economico. Mi preoccupa vedere che in altri paesi lo si dà molto di più all'istruzione. Quant'è la percentuale di quelli che in Italia invece ritengono che l'istruzione e la formazione sia... L'Italia il 24%, laddove in Germania il 55% e gli Stati Uniti il 44%. Perché? Perché l'idea è che l'impresa in qualche modo sia basata sul genio e l'inventiva. In realtà noi sappiamo che le sfide della modernità sono molto, ci inducono a ritenere che il livello di preparazione, la competenza e l'istruzione sia l'elemento decisivo. E già ieri se ne parlava con Luca Paolazzi, attenzione a immaginare l'uomo solo al comando, non sono più gli anni 60, non sono più gli anni 50, adesso vi arriveremo dopo il meteo. E quindi va bene che nella memoria collettiva vi siano le figure di Pirelli, di Olivetti, di Agnelli, di Valletta e quant'altro, però non è più quel periodo lì. In questo momento, già lo dicevamo ieri, l'idea dell'imprenditore che fa tutto lui, il falso tutto me, e che è stato uno degli elementi anche dei successi di questo paese negli anni 50, 60, 70, per poi negli anni 80 la piccola e media impresa del nord-est, la dorsale adriatica e quant'altro, non regge più con quei criteri. La competizione globale è una grande opportunità sui mercati distanti, ma necessita di ancora più managerialità e quello che si chiama un approccio sistemico, cioè non solo l'intuizione, non solo la genialità, non c'è un'idea che ti permetta di vivere poi tutto il resto della vita grazie a quel brevetto, a quell'idea. Parliamone dopo il metro della pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. :17:36 di nuovo in diretta dalla Fiera di Parma, appunto, dove stiamo commentando quanto è emerso nella prima giornata, sta emergendo nella prima giornata di lavori del due giorni che il Centro Studi Confindustria dedica alla figura dell'imprenditore. Con Nando Pagnoncelli eravamo arrivati al tema da un lato dell'istruzione e dall'altro appunto non è solo l'imprenditore a pensare che serve a genialità, è l'opinione pubblica, ci stava spiegando Pagnoncelli, che ritiene che siccome fare l'imprenditore significhi avere una botta di genio, un'intuizione, dà un valore così basso al ruolo dell'istruzione, che in altri paesi, a mio avviso, da questo punto di vista più moderni, cioè che hanno capito le dinamiche di questa rivoluzione, di questa globalizzazione che è una rivoluzione, hanno capito che va bene il genio, ma devi studiare, devi essere formato, preparato e quindi reputano un livello più alto all'istruzione. Vorrei un commento su questo e poi passare invece al percepito della figura dell'imprenditore. Esattamente così, ed è così anche in altri paesi molto distanti da noi, molto lontani, cioè il valore dell'istruzione, della formazione è giudicato decisivo per, appunto, come si diceva, affrontare le sfide del mondo moderno, del mondo contemporaneo. Ecco, la differenza, da lì parliamo di strabismo, è che quando voi avete fatto la domanda non su quello che è il percepito dell'opinione pubblica sull'impresa, il ruolo dell'impresa, addirittura tre volte più importante di quello della politica, nel tirarci fuori da queste secche e da questo pantano, e invece lì cambiano radicalmente le risposte. Sì, perché in realtà la figura dell'imprenditore è una figura un po' sbiadita, un po' stereotipata e un po' poco attraente. Abbiamo chiesto, esprime una valutazione sulla figura dell'imprenditore, 53%, quindi un italiano su due esprime un giudizio positivo, uno su quattro, il 28%, un'opinione negativa e un 19% un'opinione neutrale. I positivi in altri paesi assumono un rilievo maggiore. Negli Stati Uniti l'imprenditore ha un giudizio positivo del 75%, che 3 su 4. Che è un paese che ha meno penetrazione, in proporzione, gli Stati Uniti hanno meno piccoli e medi imprenditori di quanto abbiamo noi in molte aree geografiche. Esattamente. Però la percezione dell'imprenditore è migliore, pur avendone meno e conoscendone meno. Esattamente. E in altri due paesi con economia in forte crescita, Turchia e Polonia, 70%, 68% di giudizi positivi. Secondo aspetto interessante, quasi la metà degli italiani, il 45%, ritiene che l'immagine dell'imprenditore si sia involuta, sia cambiata ma negativamente negli ultimi tempi. Soltanto il 28% pensa invece che abbia avuto un'evoluzione positiva. E allora non ci sorprende il fatto che quando noi abbiamo chiesto ma che tipo di professione consiglierebbe a un brillante laureato, ebbene il dipendente oggi è preferibile all'imprenditore. Al primo posto si colloca il libero professionista, citato dal 35%. Il 21% cita un impiego pubblico a un giovane brillante laureato e la dice lunga sul tema della sicurezza, della certezza del posto di lavoro. Sì, ma anche dell'accettare la sfida della modernità, perché piaccia o non piaccia. Esattamente, il venir meno, non puoi far finta di vivere un'altra epoca storica. Uno su cinque che risponda io non ce l'ho con l'impiego pubblico, ma ci mancherebbe, però è una risposta che ti potevi aspettare negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, non adesso che tu sai che insomma la velocità del cambiamento rende, passatemi il termine, tutto precario, anche se aumenta le possibilità e le opportunità. Certo, poi a 20% il dipendente privato e poi un 20% l'imprenditore. Quindi vedete che sostanzialmente c'è una sorta di caduta un po' dell'immagine sociale, della reputazione sociale dell'imprenditore. Ecco, come vi siete spiegati all'Ipsos questa differenza enorme? Cioè dall'essere i primi nei paesi analizzati, Germania, Stati Uniti, Polonia, Turchia, appunto Italia, sul ruolo che viene attribuito all'impresa come attore sociale, come quindi non solo per fare utili ma per creare benessere, responsabilità sociale, per far uscire il paese dalle secche e invece il livello così basso, più basso degli altri paesi nella figura dell'imprenditore come attrattività? Ma in realtà perché innanzitutto si ha un po' l'impressione di un'immagine in bianco e nero dell'imprenditore, quella che abbiamo chiamato nel nostro rapporto un'immagine idealtipica, no? Quindi 2/3 degli italiani pensa che l'imprenditore coincida col fondatore dell'impresa. L'imprenditore è legato al comparto produttivo, è sicuramente giudicato competente, determinato, coraggioso, intelligente, però per esempio quando andiamo a vedere un gran lavoratore, da noi il 30%, negli altri paesi tra il 45 e il 50% si colloca al primo posto talora. Poi c'è il tema del dinamismo, della capacità di innovazione, dell'onestà, che in Italia è un po' più bassa rispetto agli altri paesi e così via. Quindi c'è questa immagine un po' in bianco e nero, ricordo però che più di uno su due dà un giudizio positivo. E poi si stanno affacciando lentamente alcune figure di imprenditori che abbiamo chiamato una versione 1.0, 1.5, 2.0, che però sono strettamente legate ad alcuni comparti, ad alcuni settori. In particolare l'evoluzione massima, quella 2.0, è il profilo di un imprenditore. È un imprenditore delle innovazioni, una sorta di libero professionista dell'imprenditoria, è giovane, esperto, dinamico, sfrutta la rete, le app, il web in tutte le accezioni, sia per conoscere che per fare impresa. È un po' il mondo delle start-up, è ovvio che è un'idea... Pagnoncelli mi sta dicendo che se chiediamo agli italiani di identificarsi nella figura dell'imprenditore o di delineare questa figura... vanno da Olivetti, Pirelli, Agnelli a il mondo delle start-up, cioè con un volo pindarico, per cui di mezzo tra gli anni 50 e il 2010 è sbiadita l'immagine di chi è stato in mezzo in questi anni. Esattamente questo, tanto è vero che poi in chiusura quando noi chiediamo chi è l'imprenditore che innova, ovviamente è colui che in realtà investe nell'innovazione, però ha anche, come dire, una visione molto legata a se stessa. Ma chi è l'imprenditore che si rinnova? Questa è la vera accezione nella quale forse riconoscersi in prospettiva futura. È quello che è in grado di cogliere l'esistenza di diversi attori attorno a sé, di diversi stakeholders, portatori di interessi, e quindi è l'imprenditore che è in grado di trovare un punto di equilibrio tra interessi non sempre convergenti di questi attori che ruotano attorno all'impresa, i propri dipendenti, i propri fornitori, i diversi, cioè le comunità, si parlava prima, nelle quali agiscono queste imprese e così via, e quindi reimpossessarsi di un ruolo sociale. E qui si salda probabilmente quell'immagine positiva dell'azienda con una visione ideale dell'imprenditore del futuro. Ecco, per concludere, veniamo alla parte, diciamo, di suggerimento, perché le analisi sono belle se poi portano anche una parte di proposta. Allora, lo dicevamo ieri, ma anche anni fa, come battuti, io dissi, perché il tema dell'immagine dell'imprenditore non è la prima volta che la Confindustria lo affronta, dissi, manca una serie TV in cui ci sia al centro come protagonista un imprenditore. Abbiamo serie TV sui carabinieri, sui preti, sui giornalisti, sui commesse, su tante categorie sociali. Io banalmente facevo notare, da uomo di comunicazione, che tutte le volte che in queste serie TV che creano l'immaginario, quindi orientano, è inutile girarci attorno all'opinione pubblica, creano anche un nuovo immaginario, svecchiano magari stereotipi passati, ogni volta che in queste serie TV di successo c'è un imprenditore, ha sempre le caratteristiche un po' dei film di Dino Risi o di Monicelli degli anni 60, cioè... la macchinone, è un po' evasore, un po' ganassa, un po' furbone, furbacchione, cioè che rispetto a quello che noi vediamo di gente che sia la prima o la terza generazione è sempre in giro per i mercati, non ha più l'euro come mercato di riferimento esterno, ma è mercato domestico, ma ha la Cina, il Brasile, l'Indonesia, le Filippine, l'India, i paesi OPEC, insomma noi vediamo altri imprenditori che tutto hanno come caratteristica che non quello, diciamo, molto rampante, ruspante in tutti i sensi degli anni 60. Non è che manchi una comunicazione da questo punto di vista? Manca sicuramente, manca a più livelli, manca a livello di singolo imprenditore, manca probabilmente anche a livello associativo e manca a livello mediatico. Cosa intendo? Intendo dire che al di là della possibilità che ci debba essere comunque una fiction che vada un po' a colmare questa lacuna, no? Io credo che sia difficile individuare oggi un imprenditore di riferimento, perché appunto c'è un gap temporale enorme rispetto agli imprenditori del passato. E molto spesso gli stessi imprenditori o manager che vengono ospitati dalle trasmissioni di approfondimento, i talk show e così via, vengono interpellati talora per dare pareri sull'universo mondo. non per raccontare l'impresa, la loro quello storia. Che fanno loro. Io credo che ci sia bisogno di un pochino più di racconto delle esperienze dell'imprenditore, anche nei suoi inciampi, anche nelle sue difficoltà, senza le classiche geremiadi per cui ci si lamenta perché mancano infrastrutture, la burocrazia, eccetera, eccetera. L'imprenditore è animato da uno spirito positivo e quindi provare a raccontare, diciamo, e dare contenuto all'immagine e alla professione dell'imprenditore credo che possa rappresentare un elemento positivo che possa favorire anche un processo emulativo. Sì, andremo troppo in là a raccontare perché in questi anni e decenni anche a livello associativo ci si è concerti più con sui rapporti con il governo, con diciamo, le componenti politiche e che non nel dare un'immagine, diciamo, di ciò che fa l'imprenditore. Però la cosa interessante della vostra inchiesta, Pagnoncelli, è proprio del vostro la differenza tra impresa, ripeto, in cui abbiamo un ottimo percepito, e il ruolo dell'imprenditore. Qualcuno mi fa notare che c'è la trasmissione Boss in incognito. Sì, è vero, in cui però emerge l'aspetto umano, se vogliamo, per le poche volte che l'ho vista, dell'imprenditore, ma non emerge quello che significa tutti i giorni fare impresa, anche piccola impresa. Emerge l'aspetto umano di chi poi capisce la sua azienda, conosce i dipendenti attraverso appunto le mentite spoglie. Però l'idea di svegliarsi ogni mattina e capire che i mercati si spostano, da lunedì saremo in diretta dal Vinitaly, quello è un classico mondo in cui le imprese hanno preso armi e bagagli, nell'arco di 10 anni sono passate dal vendere vino solo in Gran Bretagna o Germania a doverlo vendere, a ritornare prepotentemente sul mercato americano, quello canadese e tutti i mercati emergenti. Per cui insomma questa difficoltà e questi viaggi continui emergono molto poco. Io non ho una narrazione che mi venga in mente su questo. Grazie Nando Pagnoncelli. Grazie a voi. Traffico e poi andiamo sulla borsa. Vi do però prima un'anticipazione, perché è appena uscita un'agenzia in cui, secondo fonti, sempre ste fonti, il meccanismo pensato dal governo è di una cassa depositi e prestiti con fondi privati, dunque pensato dalla cassa depositi e prestiti dal governo con fondi privati per risolvere i problemi del comparto bancario, sarebbe strutturato su un unico fondo con due funzioni: gli aumenti di capitale delle banche e la gestione dei crediti deteriorati. Quindi da un lato sarebbe un fondo che garantirebbe gli aumenti di capitale, andrebbe a garanzia, così la capisco io, e dall'altro andrebbe a garanzia dei crediti deteriorati, immagino, viste le posizioni dell'Europa, quelli di miglior qualità. E la dotazione minima di questo fondo sarebbe di 7 miliardi di euro. Ora io mi chiedo, siccome questa agenzia è uscita a mercati aperti, qualcuno la sapeva già, mi chiedo, non vorrei fare la mezza vergine, se qualcuno, sapendolo già, non abbia comprato e guadagnato in maniera pazzesca oggi, visto che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha chiuso con un più 14%, la Pop Milano con più 11%, il Banco Popolare con più 11%, Unicredit con più 9,80%, Ubibanca con più 8,70%, Monte dei Paschi più 7,90%. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Molte agenzie che stanno uscendo, vabbè, sul DEF, anticipazioni, invece ci sarebbe un rapporto di Mediobanca che attribuisce alla Banca Popolare di Vicenza una valutazione compresa tra 1,1 miliardi e 1,6 miliardi di euro sulla base degli utili da qua al 2018. La valutazione include già l'aumento di capitale di 1,5 miliardi, mamma mia che massacro, e la ricerca taglia del 17% le previsioni di utile al 2018 ed esclude la valutazione dei rischi legali e di liquidità giudicati non quantificabili in questa fase. Cioè, dopo un aumento di capitale da 1,5 miliardi, fra 2 anni la banca ne varrebbe il suo aumento. Lo dico perché noi saremo a Vinitaly in diretta lunedì e martedì, ma si annunciano, stante le notizie che abbiamo ricevuto, manifestazioni domenica, quando inaugurerà a Vinitaly, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Lunedì sarà la volta invece del Premier Matteo Renzi. Dicevo, contestazioni di decine o centinaia, non abbiamo capito, di famiglie vicentine, di azionisti della Popolare di Vicenza, chiaramente, che andranno a contestare Zonin è presente come azienda, grande azienda vinicola, ma lo andranno a contestare per il ruolo che ha avuto per 13 anni, forse di più, come presidente della Popolare di Vicenza. A Allora, dicevo, le banche, abbiamo già detto, più 4,1% l'indice nel finale, più 1,30 a Parigi, più 1% Francoforte, più 1 Londra. Dopo il GR24 andremo a commentare tutte le banche, ma oggi è salita anche Telecom Italia, più 6,30%, è salita Saipem con il petrolio, più 7,70%. Il titolo che è salito meno oggi è Italcementi, più 0,40%, 349-238-6666. Per SMS e WhatsApp ne parliamo dopo il GR. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, sempre qui dagli studi di Radio 24 alla Fiera di Parma, ma adesso abbiamo chiuso il tema di questi due giorni, che sarà poi il tema portante di questi due giorni, Confindustriali, ci siamo spostati sulla borsa. Dicevo, se uno avesse voluto la controprova di una borsa schizofrenica, speculativa, che si muove neanche sui rumors, ma proprio neanche sulle voci, ma così sulle sensazioni, beh, oggi ne ha avuto la cartina tornasole, perché dopo sedute intere di cali fortissimi sul settore bancario e conseguentemente anche sull'indice di Milano, oggi Milano fa più 4%, 4,1, mentre Parigi fa più 1,35, Francoforte più 1, Londra più 1,10, e lo fa perché le banche oggi improvvisamente, adesso spiegheremo il perché, sono tornate ad essere appetibili. Popolare Emilia Romagna più 14,31, Milano più 11, come il Banco Popolare, Unicredit più 9,70, Ubibanca più 8,80, Monte dei Paschi più 7,90. Continuo con le banche, Intesa San Paolo più 6, Mediobanca più 5,80%. Il petrolio in netto recupero oggi vicino ai $40 al barile, porta a crescere anche Saipem più 7,70 ed Eni più 4,30. Bene, oggi hanno comprato tutto praticamente, nel senso che sale molto anche un titolo come Tenaris più 5,70, Mediaset più 5,30, bene anche sul risparmio gestito Anima più 4,70 e Azimut più 4,30, Exor, quindi gruppo Fiat da controllante, più 4,14, Fiat Chrysler più 4%, CNH più 3,55%. I rialzi meno significativi sono quelli di Italcementi più 0,40, A2A più 0,50 come Poste Italiane, e il lusso oggi è rimasto un po' più al palo, Moncler più 1,60, Campari più 1,5, Luxottica più 0,70%. Dottor Filippo Diodovic, strategist per IG Market Italia, buonasera. Buonasera a tutti. Ricordo che noi ogni tanto invitiamo in trasmissione appunto gli operatori di borsa. Allora, io capisco che ci sono le indiscrezioni, leggevamo un'agenzia appena battuta prima del GR24 in cui il meccanismo per il fondo di garanzia prevederebbe un unico fondo con due funzioni, sia gli aumenti, garantire gli aumenti di capitale delle banche, garantire la gestione dei crediti deteriorati, quindi le sofferenze. un fondo in cui entrerebbero fondi privati, fondazioni, casse, deposito e prestiti, e con una dotazione minima di 7 miliardi di euro. Ma voglio dire, siamo al così alla roulette, o diciamo lei vede un motivo quantomeno presentabile, giustificabile, per titoli che perdono prima il 10 poi guadagnano il 13? No, la verità è che la volatilità continuerà ancora a lungo fino a che non ci sarà un accordo definitivo per quanto riguarda la gestione dei crediti deteriorati e la garanzia per quanto riguarda l'inoptato delle prossime ricapitalizzazioni. Dobbiamo aspettarci ancora forti movimenti. Ricordiamo comunque che il settore bancario, ma tutto il settore bancario, non solo quello italiano ma anche quello europeo, è in forte pressione per quanto riguarda i bassi tassi di interesse, quindi la ridotta redditività per quanto riguarda il credito. Quindi ecco, in questo contesto il settore italiano, il settore bancario italiano è ancora più in difficoltà per la gestione dei non performing loans, delle sofferenze di quelli deteriorati, che sono ingenti, e la stessa BCE ha fatto delle pressioni per risolvere la questione il prima possibile. Ecco perché. Sì, però mi scusi Diodovici, io capisco il ragionamento, però siccome siamo in assenza di notizie certe, queste sono voci, vedremo, e dovrebbe arrivare la prossima settimana, lei come si spiega che uno butta giù le banche anche ieri, meno 5, meno 4, meno 3, abbiamo iniziato lunedì e martedì, e poi oggi più 10, più 14, perché o delle due l'una, o uno va a ricoprirsi e basta, però mi sembra dei livelli altissimi di ricoperture, oppure qualcuno ha delle notizie, e allora lì iniziamo a entrare su altre categorie, non dico penali, ma ci avviciniamo, ha delle notizie di prima mano e va a comprare facendo anche l'auto i guadagni. Qua è delle due? Quello sulle notizie in anticipo, quello dovrà indagare la cosa. Certo, i movimenti sono sicuramente molto molto forti, e perché se sono vere queste indiscrezioni, che veramente il governo è a un rush finale per quanto riguarda il progetto del veicolo per gestire le ricapitalizzazioni e i crediti deteriorati, e qualcosa il discorso è che è da giorni che girano queste voci, e insomma il fatto che siano state girate delle lettere alle fondazioni, agli enti previdenziali per entrare in questo veicolo, diciamo che insomma le persone che sapevano delle manovre sono molte. Se hanno operato in borsa, come detto, quello dovrà indagare la Consob se hanno. Sì, ma io, guardi, io non voglio fare anche in questo caso la verginella. È ovvio che se noi avessimo visto un settore tutto positivo all'inizio settimana, uno diceva, beh, stanno circolando sempre con maggior forza queste indiscrezioni. La cosa obiettivamente abbastanza inaccettabile, a meno che uno, l'obiettivo non sia di allontanare qualunque risparmiatore dalla borsa, è vedere che fino a ieri tu vendevi pesantemente questi titoli e oggi improvvisamente hanno ricevuto una mano di bianco, nel senso sono diventati improvvisamente belli. Allora, questa più che speculazione, a mio avviso si chiama, c'è il rischio che si possa chiamare anche utilizzo di informazioni riservate, non dico insider trading, ma ci siamo molto vicini. Non avrebbe più senso sospendere alcuni titoli? Ma le sospensioni, c'è cioè un meccanismo che funziona in modo automatico, quindi lo sappiamo che poi per eccesso di rialzo o eccesso di ribasso possono finire in assi di volatilità. Oggi i rialzi sono stati importanti, ma non sono stati tali da portare i titoli in assi di volatilità, quindi sono stati, nonostante come detto importanti, ma come detto, inferiori alle sospensioni. Si può decidere, certo, si può prendere una decisione per quanto riguarda diminuire questo range per quanto riguarda la sospensione. Come detto, le informazioni ci sono state tutta la giornata, sono girate informazioni per quanto riguarda il settore, e la borsa guadagnava, questi titoli guadagnavano 5-6 punti percentuali a metà giornata, nel corso del pomeriggio poi gli acquisti sono diventati ancora più importanti. Quindi è stato non c'è stata un'esplosione, però è stato un processo continuo per quanto riguarda gli acquisti, che ha portato poi i titoli, soprattutto i titoli che hanno un'ingente quantità di crediti generati in sofferenza, come Popolare Emilia Romagna, Banco Popolare, e questi titoli sono quelli che hanno guadagnato di più. Quindi per questo sembra proprio che il governo sia molto vicino a una soluzione. Allora, da questo punto di vista vedo che alcuni mi dicono, ma insomma, cosa, lei non capisce nulla, vabbè, questa non mi sembra una notizia. Il mercato è da sempre, si basa sulle notizie da dentro, sì, certo che c'è un modo di dire in inglese buy on rumors and sell on news, compra sulle voci e vendi sulla notizia, lo sappiamo tutti questo, però un conto è rischiare e verificare e poi per poi vedere se le voci sono vere, c'è un rischio perché se sbagli chiaramente poi la paghi. Altra cosa è avere in mano documenti riservati, abbiate pazienza, e sulla base di documenti riservati andare a comprare in borsa, sono due cose un po' diverse, una si chiama insider trading, l'altra no, l'altra si chiama rischio di chi investe. Ancora vedo che altri ritengono che ci possono, ci siano altri elementi, le formule algoritmiche per andare a comprare, è vero che ci sono, Diodovic, diciamola così per farci capire a tutti, i computer che decidono quando tornare a riacquistare o quando vendere, ma non è giustificabile solo con questo, o sbaglio? Sì, no, sicuramente il discorso del trading algoritmico è vero che ci sono livelli in cui dopo si rientra, ci sono dei riposizionamenti, però ecco, gli acquisti di oggi sono legati diciamo a un maggiore entusiasmo per quanto riguarda il comparto, ma ricordiamoci comunque il comparto, tutto il comparto bancario ha evidenziato delle perdite notevolissime nelle ultime sedute, quindi anche questa forte negatività ha diciamo portato agli acquisti odierni. E va bene, migliori e peggiori oggi è facile, nel senso che tutti i migliori sono banche, la Popolare Emilia Romagna in assoluto è la migliore di tutto il listino, e poi però c'è RCS Media Group, Rizzoli Corriere della Sera, che guadagna l'11,50%, notizie su Rizzoli al di là delle varie voci di questi giorni? Non ci sono state, insomma, notizie particolari, insomma, che hanno guadagnato un po' tutti i settori oggi, tranne diciamo delle utilities e diciamo i titoli più difensivi che sono diciamo hanno aumentato solo gli altri contenuti, tutto il resto del settore diciamo industriale è stato diciamo molto acquistato. Si sono registrati anche diciamo anche forti volumi per quanto riguarda RCS, che insomma il balzo è stato sicuramente significativo. Allora, i peggiori, Fulsix meno 5,70, risanamento meno 4,5, Neurosoft meno 4,90%. Grazie a Filippo Diodovic di IG Italia. E adesso andiamo subito sul traffico. Focus Economia. Non c'è primavera senza DEF e non c'è DEF senza Dino Pesole. Vediamo se regge questa formula. Dino Pesole, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Ecco. Da dove stai parlando, dalle segrete stanze dove è iniziato il Consiglio dei Ministri? Perché ti sentiamo un po' distante. Dino, eccoci. Sì, eccomi, ora va meglio? Sì, ora va meglio. Allora... oggi il Ministero ha cercato di smentire in tutti i modi le anticipazioni presenti anche sul Sole 24 Ore sulla bozza del DEF con le nuove previsioni. Sì. Tu hai informazioni ulteriori, perché nel frattempo invece qualche altro elemento l'abbiamo visto, il Tesoro ha twittato che il deficit scende, per la prima volta anche il debito va giù dopo 8 anni, ha twittato sempre il Ministero del Tesoro che il PIL cresce più che nel 2015, ma questa non è una notizia, la sapevamo già. Le stime che anche voi avete, che anche il Quotidiano ha pubblicato, un PIL tra l'1,2 e l'1,3%, un deficit al 2,4, forse 2,3%. Dino? Sì, esattamente, più o meno dovrebbero essere queste le cifre, tra un po' le sapremo di più con la conferenza stampa che concluderà il Consiglio dei Ministri. Si può già fare una prima considerazione, ma era abbastanza scontato: la crescita di quest'anno sarà più ridotta rispetto all'ottimistico 1,6 che il governo aveva previsto a settembre. Quindi siamo attorno all'1,2, forse 1,3, ma insomma più o meno questa è la stima, con il rischio, e poi ne aggiornamento che arriverà a settembre, che questa stima possa essere ulteriormente rivista al ribasso. Per ora il governo si mantiene su una posizione mediana e promette a Bruxelles un deficit in discesa attorno al 2,3% del PIL contro il 2,6% dello scorso anno. Questa è una notizia importante perché vuol dire che in questo modo si soddisfa una delle condizioni che la Commissione europea ha chiesto per liberare un po' di flessibilità sia quest'anno che il prossimo, e cioè che il deficit di quest'anno fosse inferiore a quello del 2015. Questo è il quadro per quanto riguarda l'anno in corso. Per il 2017 siamo ancora in attesa della cifra che è quella che si conta, e cioè sul nuovo livello di deficit dell'anno prossimo, perché su questo si misura la richiesta di ulteriore flessibilità che il governo dovrebbe avanzare a Bruxelles tra maggio e giugno, direi. Questo è un po' il quadro. Allora, chiedo scusa agli ascoltatori per la cattiva qualità dell'audio, ma insomma non è colpa nostra se nel 2016 in questo paese ancora non si riesce per una qualità decente da un telefono. Però detto questo, tu ricordavi giustamente, Dino, che per quanto Tesoro dica quest'anno cresciamo più dell'anno scorso, e va bene, però la prima stima di settembre era di un PIL per quest'anno dell'1,6% di crescita. Adesso siamo tra l'1,2 e l'1,3%, e quindi già adesso torniamo al tema, sempre meglio il segno più che il segno meno, però va detto giornalisticamente che c'è una revisione al ribasso della stima di crescita per quest'anno. E lo dico anche al governo, inutile che quest'anno saliamo più dell'anno scorso, ho capito, è sempre come la vedi, no? Ma restiamo sulle previsioni, si cresce meno di quanto previsto, non è colpa necessariamente del governo, è rallentata l'intera economia mondiale, a partire dalla Cina, il Brasile, la Russia, l'abbiamo spiegato in tutti i modi. Molti paesi hanno rivisto a ribasso le previsioni, però è inutile, perché sennò dà l'illusione di voler sempre dare una mano di bianco alle notizie, di dare un'edulcorazione alle notizie, dire cose come stanno. Cresciamo più dell'anno scorso, come era previsto, ma cresciamo meno di quanto era previsto solo a fine del 2015. Sul deficit, invece, tu ricordavi che già farlo scendere al 2,4 sarebbe un viatico per avere via libera a Bruxelles. Abbiamo visto questa mattina dire una stima di un deficit l'anno prossimo all'1,8% e di un debito invece che scende meno del previsto, anche se il Ministero dice per la prima volta scende dopo 8 anni. Dino? Sì, esattamente. Il livello del deficit del prossimo anno non è ancora scritto, probabilmente lo sarà in questi mesi, perché è tutto evidente che questo si misura la possibilità che il governo possa avere uno scontro ancora, tra virgolette, chiamiamolo così, da Bruxelles per l'anno prossimo. La stima di settembre scorso era un deficit all'1,1%. Ovviamente se il governo riuscirà a ottenere una flessibilità da Bruxelles per un altro punto di PIL, questo porterebbe il deficit cosiddetto nominale al 2,1%. E poi c'è tutta la sommessa sull'inflazione che non è ancora ben definita, perché come vediamo il livello dell'inflazione, lo ha detto Draghi ieri ancora una volta, resta basso. Quindi dalle poste in circolazione vedo che per il 2017 il governo indica un'inflazione all'1,3%, mi sembra un po' alta, ovvio, un po' alta, perché il contesto internazionale va in altra direzione. Però questa è una variabile non da poco. Allora io sono siccome io ti capisco perché ho le cuffie, però immagino che gli ascoltatori invece abbiano ancora più problemi a capire. Devo ricoprire un ruolo nuovo, non più il conduttore ma il, diciamo, traduttore, ma va benissimo perché ho capito quello che dice Dino Pesaro, cioè che da un lato le attese per il nostro deficit sull'anno prossimo erano di un deficit più basso, lì si giocherà la flessibilità, se invece che all'1,1 ce lo potranno garantire al 2,1%, un punto di PIL vuol dire avere qualcosa come 17-18 miliardi di margine in più sul deficit. E l'altro elemento che convince poco Dino Pesole è il tema dell'inflazione vista più forte delle delle attese. Dino, sul debito, vediamo se dovrò fare la traduzione anche in questo caso, visto che è vero che cala dal 132,7 al 132,4% del PIL, ma era previsto calare un bel po' di più, al 131,4%, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Nel caso del debito direi che a questo punto è mezzo vuoto, perché l'aspettativa era di un calo del debito, come tu ricordavi, molto più vigorosa. Però c'è da dire che a fronte di un rallentamento della crescita, poiché si tratta di due elementi che si parlano tra di loro, uno è il denominatore e l'altro è il numeratore, ed è tutto evidente che se cresciamo di meno il debito aumenta o non diminuisce in misura prevista. Quindi il segnale politico, secondo me, che il governo vuole inviare a Bruxelles è che comunque il debito quest'anno inizia a scendere dopo 8 anni di crescita ininterrotta. Se riusciremo a farlo scendere, perché è questo il punto focale di tutta la strategia, perché se non riusciremo è molto difficile che Bruxelles ci accorderà flessibilità, maggiore flessibilità. Certo. Allora, questo è il segnale che il governo vuole dare a Bruxelles, mentre il segnale del tuo telefono è migliorato nel finale, e anche qui, come dicevamo, con la crescita del PIL, piuttosto che niente, meglio piuttosto, dicono a Milano, almeno gli ultimi 2 minuti, e non ho bisogno di ripetere quanto hai detto, è verissimo che è un segnale anche politico, perché tu puoi sperare che Bruxelles ti conceda di più se vede che hai iniziato a far calare, anche se non come ti attendevi, il debito, e comunque stai tenendo in calo anche il deficit. In caso contrario, a mio avviso, un po' più di flessibilità ce la possiamo scordare. Grazie anche a Dino Pesole in collegamento con noi. Da Sebastiano Barisoni, come sempre, un ringraziamento a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi anche questa settimana per l'assistenza in redazione, a Davide Cioccia per l'assistenza tecnica qui a di bassa frequenza qui a Parma, a Valeria Berardi per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Un buon fine settimana soprattutto per chi lo dovrà passare lavorando. Saremo in diretta a quel punto dal Vinitaly. Radio 24, la passione si sente.